Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, arrivata alla sua puntata numero 440. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Dedichiamo questa puntata ai cavalli costretti a correre nel palio di Siena. Ci rammarichiamo molto della commentatrice della RAI, Annalisa Bruchi, che durante la diretta del palio a un certo punto ha urlato entusiasta: il drago ancora primo, ma l'oca cerca di raggiungerlo, sta nerbando il più possibile il cavallo. Ecco, questo entusiasmo per le nerbate ci ha molto rattristati. L'associazione Italian Horse Protection fa notare che le frustate per un cavallo, oltre a essere dolorosissime, sono totalmente inutili per farlo correre più forte, anzi semmai lo rallentano e quindi non rappresentano altro che una violenza gratuita fatta solo per aumentare l'intensità dello spettacolo. Nessun cavallo è morto a questo giro, ma un fantino è gravemente ferito con fratture multiple ed è statisticamente dimostrato, come afferma appunto Italian Horse Protection, che l'equitazione è un'attività, non ci piace chiamarla sport, con il più alto tasso di incidenti in assoluto, spesso molto gravi sia per le persone che per i cavalli, animali la cui natura viene piegata con la doma e con allenamenti estenuanti per costringerli a competere, a vincere e a esibirsi. Qualcuno giustamente ha fatto notare sulla nostra pagina Facebook, che ve lo ricordiamo, si chiama Restiamo Animali, che con la scusa delle rievocazioni storiche stiamo pagando il canone RAI per vedere questi spettacoli e per ascoltare questi commenti abbastanza allucinanti. Allora perché, si chiede qualcuno, non far vedere tutte, ma proprio tutte le manifestazioni storiche delle città italiane? Ebbene, questa persona ha ragione, infatti ci rattrista constatare che il linciaggio e l'agonia di quei poveri cavalli costretti a correre in un pericoloso percorso in mezzo alla folla urlante fa cassetta, piace molto più di altri eventi di genere culturale, e che la TV di Stato finge di ignorare cosa c'è dietro il palio di Siena e si comporta come una qualsiasi emittentucola locale privata. Sembra di essere tornati ai tempi dei gladiatori, panem et circenses. Thank you. Macellai hanno paura dei vegani. Il titolo fa un po' ridere, non si capisce proprio come una montagna possa avere paura di un topolino, eppure si tratta di una storia vera, una storia francese. In Francia i vegani, infatti, sono sempre più agguerriti. Si tratta di una tribù fortemente in crescita, prevalentemente di sesso femminile, età media fra i 25 e i 34 anni. Vanno in giro con zainetti con su scritto Veggie. Organizzano manifestazioni esibendo cartelli raccapriccianti con immagini di animali squartati agonizzanti, versano sangue sui marciapiedi, fanno sit-in con bende nere sugli occhi in segno di lutto. Per noi sta diventando un incubo. È con questa premessa che i macellai francesi hanno deciso di scrivere un accorato appello al ministro degli interni francese Gérard Collomb, chiedendo quanto segue. Contiamo sull'aiuto del governo affinché cessino subito le violenze fisiche, verbali e morali di cui siamo oggetto. Siamo stanchi di minacce e intimidazioni. Vogliamo la protezione della polizia. La missiva è stata firmata da Jean-François Guillard, presidente della Confederazione francese dei macellai e dei salumieri, che conta circa 18.000 iscritti. Al ministero l'hanno presa molto sul serio, Collomb ha assicurato che una soluzione sarà trovata. Negli ultimi mesi il clima è peggiorato, lamenta Guillard. Nell'aprile scorso 7 macellerie di Lilla sono state attaccate e cosparse di sangue finto. I vandali hanno spaccato le vetrine e imbrattato i muri. Nel mese di maggio gli attivisti per il benessere degli animali hanno anche preso di mira un pescivendolo e un ristorante, scarabocchiando sulle vetrine le parole «no allo specismo». Popolare tra i sostenitori dei diritti degli animali, il termine specismo suggerisce che maltrattare specie non umane è una forma di discriminazione simile al razzismo o al sessismo. Con solo il 3% della popolazione francese vegetariana o vegana, l'idea di abbandonare la carne fa certamente fatica ad affermarsi in un paese orgoglioso del suo bœuf bourguignon e del suo foie gras. Ad aprile scorso il Parlamento francese ha anche approvato una legge che rende illegale per i produttori di alimenti vegetariani utilizzare espressioni legate alla carne come bistecca, bacon, salsiccia o bacon tasting per descrivere cibi che non sono di carne ma che gli somigliano molto. E questa è stata vista come una vittoria per la potente lobby francese della carne. La vera spina nel fianco dei macellai francesi è l'associazione L214, che ha effettuato tutta una serie di interposizioni non violente, entrando nei mattatoi, fermando i lavori dei mattatoi, creando delle situazioni mediatiche che hanno fatto molto clamore. Tra queste una serie di investigazioni che sono state poi diffuse dai media nel corso del 2017 e del 2018 che rivelano con immagini scioccanti la condizione disumana in cui gli animali vengono allevati e uccisi. Contro questa ingiustizia la Francia Animalista e Vegan è scesa in piazza a Parigi pochi giorni fa con un corteo di migliaia di persone che si sono riunite dopo l'appello dell'associazione animalista L214 per chiedere la chiusura dei macelli e la scelta di uno stile di vita rispettoso di tutti gli animali. Brigitte Gauthier è uno degli esponenti più influenti dell'associazione L214. Grazie alle sue capacità comunicative, Brigitte viene intervistata dai media molto spesso ed è stata in grado di attivare un popolo di persone sensibili e disposte a mobilitarsi in prima persona. Intervistata da Libération sulla possibilità di avere della carne felice, ha dichiarato: «Ci sono dei controlli, ma la realtà è che siamo incapaci di uccidere gli animali senza farli soffrire. Quando parliamo di uccidere con umanità e dignità, ci stiamo raccontando delle favole». Let's play Master. despise, a throwaway feeling from disposable fun. This is the one. L'ex Congo belga, oggi Repubblica Democratica del Congo, è un paese mondo che ha avuto la sventura d'essere il cuore segreto della storia europea e mondiale dell'ultimo secolo, e anzi forse degli ultimi secoli, perché il rapporto fra quello sterminato paese e il cosiddetto Occidente è cominciato al tempo della tratta degli schiavi. È una storia straordinaria raccontata da David Van Reybrouck nel suo formidabile libro intitolato appunto Congo, pubblicato qualche anno fa da Feltrinelli. Il Congo, conquistato in epoca coloniale dal piccolo quanto brutale Belgio, è stato e in parte ancora è una palestra delle più intense forme di estrazione di risorse e sfruttamento delle popolazioni. Si è cominciato trafficando persone, si è proseguito con una colonizzazione economica senza scrupoli. In Congo sono nate le moderne multinazionali che hanno saccheggiato le ricchezze naturali del paese. Il primo business planetario è stato il caucciù, senza il quale non sarebbe nata l'industria dei pneumatici, ma anche l'estrazione di diamanti e oro è un affare di lunghissimo corso. Nel Novecento la storia dell'intero pianeta sarebbe stata ben diversa senza le risorse naturali del Congo. Le bombe atomiche utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale e che sono state poi alla base della Guerra Fredda nei decenni successivi non sarebbero state costruite senza le enormi riserve di uranio del Congo, e la moderna industria informatica non sarebbe quello che è senza il coltan prelevato dal Congo. Tutto questo per dire che il Congo, per quanto normalmente sia lontano dai nostri pensieri, è in realtà un paese che ci riguarda molto da vicino. Le ultime notizie in arrivo dal Congo riguardano i suoi straordinari parchi naturali, a loro volta sotto pressione per i conflitti armati mai cessati fra le diverse fazioni che si contendono il controllo del territorio e sottoposti agli appetiti insaziabili delle multinazionali. Nelle settimane scorse abbiamo dato notizia dell'annunciata chiusura del parco del Virunga, patria delle ultime gorilla di montagna. L'uccisione di due turisti britannici è stato l'episodio che ha spinto le autorità a interrompere le attività del parco, già più volte attaccato da milizie armate. Attacchi costati la vita a una dozzina di ranger del parco. In sostanza, per proteggere un ambiente naturale in Congo si deve combattere una guerra. Le novità in arrivo dal Congo fanno capire qual è la posta in gioco. Il governo ha dato il via libera alle prime trivellazioni per la ricerca di petrolio in alcune aree dell'enorme parco del Virunga. Un'autorizzazione estesa a un'altra area protetta, quella di Salonga. La maledizione del Congo sembra quindi continuare, dall'oro e ai diamanti al caucciù fino all'uranio e al coltan e ora il petrolio. La predazione è il destino di questo paese simbolo. L'idea di tutelare la biodiversità e la vita di animali a rischio di estinzione, come i gorilla di montagna, è l'ultima vittima della spietata logica degli affari. Sulle montagne del Virunga, lungo il lato ruandese, Dian Fossey ha condotto i suoi studi sui gorilla. Lì ha concepito e scritto il suo libro Gorilla nella nebbia. Lì è stata uccisa nel 1985. Potremmo dire che la decolonizzazione in Congo non è mai cominciata e la storia del parco del Virunga, con queste ultime terribili notizie, l'attacco ai ranger e ai turisti, la chiusura, il via libera alle trivellazioni, è una drammatica rappresentazione del nostro degradante modello di sviluppo. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Ci segue da tempo, noi dedichiamo sempre volentieri uno spazio della trasmissione alla cultura. Lo facciamo in vario modo, a volte recensendo dei libri, a volte dei film. Oggi parliamo di cinema, visto che nelle sale sono recentemente usciti film di grande spessore artistico che avevano tra i protagonisti anche individui di altre specie. Cominciamo dal più acclamato tra questi, Dogman, un film italiano del regista Matteo Garrone. Il commento, come sempre, è a cura del nostro esperto filmologo di riferimento, Emilio Maggio. L'ultimo film di Matteo Garrone, ancora presente nelle sale italiane, produce continui spiazzamenti nelle aspettative degli spettatori. Ispirato sommariamente alla fosca vicenda del Canaro, che Roma ha assurto allo status di vera e propria leggenda metropolitana per la dinamica dei fatti e soprattutto per il truce epilogo da tragedia greca, Dogman, questo è il titolo del film, è un'inquietante parabola sulla miserabilità umana. Garrone, che ha giocato con scaltrezza la carta di un eclatante caso di cronaca nera, è bravissimo nel condurci in un microcosmo alieno, ma non per questo meno realistico, dove i rapporti sociali e le dinamiche relazionali sono determinate dal grado di violenza e di sopraffazione che ciascun membro della comunità è in grado di esercitare sull'altro a seconda del ruolo e della gerarchia sociale e affettiva a cui appartiene. A cominciare dal titolo, il regista travisa completamente la storia di vendetta della vittima che fa giustizia sommaria del carnefice, da cui trae larga ispirazione il film, traducendolo in una favola nera e giocando sull'ambiguità del cinema come macchina di riproduzione di realtà e di verità. Infatti, mentre a Roma il Canaro è solo un soprannome, atto ad evidenziare comportamenti e funzioni di una determinata persona e più delle volte per denotarne vizi, difetti e abitudini non conformi alle regole della comunità stessa, Dogman sembra alludere a una creatura tergiomorfa, una creatura cioè metà uomo e metà animale. L'uomo cane, interpretato da Marcello Fonte, ennesima maschera prelevata dal regista direttamente dalla strada, è l'incarnazione della non conformità ai modelli di socialità contemporanei strutturati sulla violenza e sulla stigmatizzazione dell'altro e del diverso. Esemplare in tal senso la sequenza in cui Dogman, dopo aver partecipato come palo a un furto, torna da solo nella villa rapinata per salvare un cagnolino rinchiuso nel freezer dai rapinatori. Could be wrong. I could be right. Marcello ha una bottega di tosatura e tolettatura per cani in un fatiscente villaggio che si affaccia su un indecoroso litorale che contrassegna di tante periferie del sud italiano. Ed è proprio l'ambientazione, in questo caso il villaggio Coppola a Castel Volturno, ex parco giochi per i militari della base NATO, già utilizzato da regista in due suoi film precedenti, Gomorra e L'imbalsamatore, a produrre l'ennesimo spiazzamento agli occhi dello spettatore. Si tratta infatti di un non luogo senza tempo, dove tutti parlano uno stranissimo slang romano, metafora di una terra di frontiera che rivela tutte le contraddizioni del vivere contemporaneo. Come dicevo all'inizio, se il perturbante è la modalità espressiva congeniale di Garrone, questa si alimenta proprio della continua tensione di violenza latente tra gli abitanti del villaggio, in particolar modo tra il tosatore di cani e il suo aguzzino, l'ex pugile Simone. Questa atmosfera inquietante che permea l'intero film viene interrotta solo quando Marcello è insieme ai cani di cui si occupa con grande amore, oppure nelle gite sottomarine che condivide con la figlia ancora bambina. È in questi momenti che il film riluce della gentilezza e della mitezza del protagonista, tanto a suo agio con la figlia, i cani e i fondali marini, quanto a disagio all'interno della comunità in cui è costretto a vivere. Ecco perché l'inizio del film, con il primo piano del mastino ringhiante, sembrava indurci a credere che la violenza sia una naturale predisposizione animalesca, mentre è esattamente il contrario: la comunità umana, attraverso i suoi rituali di inclusione ed esclusione sociale, l'osteria, il calcetto, il negozio, la sala giochi, la coca, il sesso a pagamento, a produrre sofferenza e alienazione. E gli occhi così espressivi e mimetici di Marcello Fonte, novello Buster Keaton, stanno lì a testimoniarlo. Nella sequenza finale, la panoramica del villaggio alle prime luci dell'alba, con Dogman esausto al centro del parco giochi, il cadavere del carnefice riverso ai suoi piedi, il cagnolino che si adagia all'ombra di una panchina, arriva finalmente la tregua. Forse la vita ricomincia davvero da qui, dopo l'odissea delle vittime che continuano a morire per fame, guerra, torture, sfruttamento. Una nuova palingenesi potrebbe affacciarsi sul nostro cupo orizzonte. Il pasto gentile di questa settimana sarà a tema. La ricetta senza crudeltà del tosco vegan chef Gabriele Palloni è ispirato al film Dogman. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Il canaro della Magliana. Da questo terribile fatto di cronaca di fine anni 80 trae spunto l'ultimo film di Matteo Garrone. Il regista ha spostato l'ambientazione della storia nella periferia casertana, già teatro di Gomorra. Ma la ricetta di oggi trova invece le sue radici nella cultura della cucina povera laziale, fatta di poche cose semplici: olio, farina e vino. Un dolce nato per le feste, ma buono in tutte le occasioni. Le ciambelline al vino. Gli ingredienti sono 400 g di farina di frumento, 80 ml di olio extravergine di oliva, 200 ml di vino rosso, 80 g di zucchero di canna, 5 g di cremor tartaro e un pizzico di sale. Setacciate la farina e disponetela a fontana. Scavate un pozzo al centro e versate il vino e l'olio. Mescolate incorporando lentamente la farina, lo zucchero, il sale ed il lievito. Lavorate con le mani, anche se l'impasto risulterà leggermente morbido e appiccicoso, fino ad ottenere una pasta liscia ed omogenea che lascerete riposare per mezz'ora coprendo con un panno umido. Trascorso il tempo necessario, infarinate leggermente il tavolo e le mani, quindi realizzate dei cilindri con la pasta e da questi formate delle ciambelline. Passate in ogni ciambella in altro zucchero di canna, quindi disponetele in una teglia con carta forno. Fate cuocere a forno statico, caldo, per 15-20 minuti a 180 gradi. Lasciate raffreddare prima di servire. Gabriele Palloni ha anche curato il montaggio musicale della puntata di oggi, sostituendo il nostro esperto di musica Giuseppe Coco, che si è concesso una breve vacanza. Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, uscito nel 2017 per le edizioni Newton Compton. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster! Rock lobster! Rock lobster! Vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 441 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.